Perché il piano Salva Irlanda non è stato per niente apprezzato dagli investitori internazionali? Ma in realtà l'aspetto irlandese della questione, che ormai ci siamo quasi dimenticati, è stato oggetto di apprezzamento, perlomeno così concettualmente. Il programma è un programma energico, molto solido, oltretutto viene anche salvato il debito bancario senza chiamare a concorrere alla ristrutturazione gli obbligazionisti delle banche e quindi l'aspetto irlandese in realtà è stato giudicato per certi aspetti talmente soddisfacente che lo si poteva mettere da parte e ci si poteva dedicare così con piena energia ai successivi paesi allineati in una coda ideale che il mercato si è messo in testa che esista. Per cui finito con l'Irlanda si può cominciare con gli altri. Quindi non è stata una delusione per l'operazione Irlanda, è stato non abbiamo più questo ostacolo dell'Irlanda, ci possiamo dedicare ai prossimi nella fila. E quindi secondo lei a questo punto sarà breve il lasso di tempo che ci separa da una, come dire, dichiarazione di richiesta di aiuto da parte del Portogallo ed eventualmente anche della Spagna, sulla quale comunque continuano a soffiare dei venti piuttosto cupi? Beh, dalla Grecia all'Irlanda sono passati cinque Sì. mesi, per il Portogallo probabilmente ne passeranno meno perché la pressione dei mercati non sarà sempre forte come è stata ieri e come oggi, ma comunque manterrà in febbrillazione l'intera area dell'Europa del Sud. Quindi mi aspetto che sia un po' più veloce. Per quanto riguarda la Spagna, il discorso è più complesso, la Spagna ha adottato misure piuttosto energiche, il problema è individuato nelle sue casse di risparmio, non tanto quindi nella situazione del debito pubblico che ha una dimensione tutto sommato bassa, e quindi la Spagna deve agire molto velocemente nel dare trasparenza sulla situazione delle sue casse di risparmio, eventualmente ricapitalizzarle, eventualmente questo con l'aiuto europeo.